negativo, Gianfranco, ciao. Come tutti penso sempre di un dolce arresto domiciliare, dolce perché io sono la campagna, quindi va passeggiata, l'ora d'aria non la posso fare, ecco, a differenza di chi è in abitazione. Viene andare il sabato si sa, è sempre pieno a prescindere, così sempre qualcuno, mentre magari negli altri giorni anche all'ora di pranzo conviene, perché si ha pranzo, c'è molta meno gente. Cosa strana, perché tu alla fine, la volta che sei dentro ti prendi quello che vuoi, appunto, vabbè, capita anche questo, è così, ma allora non ci siamo decisi a fare qualcosa per questa antenna. Adesso 9:20, ecco. No, scusa, anche S9, 5 su 5 come radio. Visuale, caspita, sicuramente è migliorato, ma dicono che da quello che si dice dovrebbe peggiorare di nuovo, è così, ok, ma dimmi una cosa, una curiosità, durante, quando eri a lavoro, diciamo, hai mai piazzato di poli e cose del genere per HF? Sì, lo so perché io spesso vedo la vostra, che non so se sia ancora usata, che è un po' bassa, messa in versione NVIDIA probabilmente. E per quello che ho fatto quella domanda, ho visto questo dipolo, eccetera, che era lì, ho detto, chissà se lo usano ancora. Lo so perché io di antenne HF figurati ne ho la bellezza di 4, in cui due verticali e due lunghissime di 80 metri di lunghezza, quindi so benissimo, figurati che in digitale in HF ce l'ho senza problemi, la parte anche australiana e quelle zone. È abbastanza bello, è abbastanza interessante. E un'altra cosa, poi, siccome io vi vedo tutti i giorni praticamente, dato che che ci avete sul fianco un'antenna che non ho capito a cosa serva, sembrerebbe un'antenna marina con uno spreco enorme di cavo, coassiale, ma è solo lì per imbarazzo, è messa un po' sopra l'uscita per intenderci, no, degli ultimi mesi. Sì, ma messa di lì la messa di lì l'antenna, non so, non so dove dovrebbe andare. Sì, conosco anche la vostra motovedetta che è un po' costosa. Due le avete fatte fuori, mannaggia, le avete vendute. C'è quella grande che ogni tanto ci vanno i colleghi a controllare, a metterla in moto. Però è sempre ferma, un peccato perché è abbastanza grande, bella. Non mi ricordo il nome, però c'è l'HF, c'è un'antenna tipica HF marina, a poppa praticamente, nella solita versione col mollone, alta, eccetera, eccetera. Sì, magari quello a livello nazionale, ma le altre probabilmente le hanno dismesse perché erano da tanto a terra, che erano appoggiate lì al muro del posto. E poi dopo qualche anno, prima ne hanno venduta una, non so se è andata a Olbia, da un privato, ovviamente qui fanno delle militarizzate. E l'altra successivamente è andata allo stesso senso all'asta. Erano quelle un po' più piccole. Dove c'erano, c'era un deposito enorme, figurati che c'erano anche le autoblindere della prima guerra mondiale. E di lì probabilmente forse le usavano per fare qualche film, prestarle magari per questi, noleggiarle per questi lavori. Ma erano, poi c'erano tantissime motociclette, le alce, le targate RE, Regio Esercito. Era una cosa bellissima, infatti durante credo il 2 giugno li avevano tutte forze, c'era veramente da lucidarsi gli occhi, perché erano proprio tenute in maniera eccellente. E certo per il privato, se non è un collezionista, non conviene, perché anche le macchine, con le macchine che viene dismessa, comunque ha sulle spalle tantissimi chilometri, quindi è così. Quello per qualunque amministrazione, a prescindere che sia militare o civile, la fine è quella, è quindi, anche perché poi, come uno dice, anche inquinamento, non credo che ne salvi di monte, quindi vanno tutte dismesse, però famate. No, la differenza tra vigile urbano e normale carabiniere, finanza, eccetera, è che uno è un corpo nazionale. La polizia urbana è a livello locale, quindi hanno giurisdizione nel proprio comune e non possono andare oltre. quello è un discorso problematico, perché se uno perde la pistola veramente, infatti qualcuno la tiene bella legata, nascosta, perché c'è proprio quella paura, per tutti la paura è quella di perdere l'arma d'ordinanza, e se no finisci in guai grandi quanto una casa, e poi con quell'arma commettono anche un reato, peggio che mai. Sono dei regolamenti severissimi riguardo all'uso delle armi, soprattutto quando si è in servizio, ma soprattutto quando si è fuori, diciamo, libera uscita, diciamo così, da. È così. E mentre invece mi dicevi una volta che tu non le hai conosciute i nuovi apparati digitali. Sì, c'era nata lì, me l'ha contato. Buongiorno. Qui domani, certo, l'ora legale domani, insomma, meglio, stanotte, dopo che è sabato. Per ora, finalmente ce ne potrà fare qualcosa in più, almeno c'è più sole, dai. Oramai la mattina non so se c'è luce, quindi in Spagna sia in corrente sia in passaggio. Poi un'altra comunicazione, il 31 è l'uso, diciamo, di una strada in pratica, perché dovranno essere ammainate a mezz'asta tutte le bandiere, perché c'è la una metà a mezz'asta. Costava 250 euro. c'era 71. Ovviamente, sai, io avrei preferito sempre comprare da qualche negozio usato, perché li controlla. Non so se questi siano privati, quindi insomma un pochino di rischio c'è sempre. Gaffa, cosa mi consigli di prendere, Gaffa, come ricevitore? Natali, guarda, io ne ho uno molto piccolo e molto bello, che è un Degen, che ti dà grandi soddisfazioni, si sente bene, eccetera. Però è una radio che puoi portare fuori, cioè se sei fuori, se sei al mare, in spiaggia, eccetera, è formidabile, senti benissimo. Se lo accendo qua a casa, purtroppo è suscettibile di quei famigerati disturbi che fanno gli altri apparati, quindi che so, le lampade al neon, i computer, le antennine wifi, e quindi c'è un fortissimo USB che rende praticamente la ricezione non troppo buona. C'è anche, per dire il vero, la sua antenna in realtà è una telescopica, però c'è anche l'attacco all'antenna che ci permette un'antenna esterna, però onestamente dubito che i risultati siano accettabili. Costa poco, nell'ambito delle 100-150 euro, nuovo, però non so a caso se lo posso utilizzare onestamente. La soluzione, ripeto, è quella di un apparato, di un vero ricevitore, di un ricevitore serio, a doppia o tripla colorazione, a cui puoi attaccarci un piccolo dipolo, un pezzo di filo, una massa d'antenna, anche se proprio se avessi anche un'antenna CB andrebbe bene, almeno per 10 metri, può arrivare anche fino a 25, ma con un ascolto molto buono. E, insomma, comunque potresti ascoltare senza disturbi. Tuttavia il problema, Natale, io ti consiglio un usato da un negozio. Mi farò un giro e vedremo un po' cosa riesco a buscare, poi ti faccio sapere. O se guarda se lo trovi tu. Nikon, negozi online, no, vendono sia radio nuove, sia radio diciamo usate, perché anche da noi c'è l'usato. Ad esempio, se a me interessa un apparato nuovo, io posso dare quello che ho, quello vecchio, loro me lo valutano e poi se lo mettono a posto, magari poi se lo rivendono e me lo scontano da un nuovo che compro, capito? Ci sono tanti negozi che accettano l'usato. Sì, dei negozi che ti garantiscono quello che prendono, di norma ti mettono anche un anno di garanzia. A me purtroppo, anche a me, come tanti, è capitato di prenderlo da un radioamatore, ad esempio, era un CR, era quello scanner, quello che costa un pacco di soldi, e poi è arrivato, tutto tranquillo, tutto eccetera, l'ho provato, per un accordo di ricezione andava male. L'ho dovuto spedire, mi è uscito un bel botto perché sono pochi per farlo riparare, e poi per recuperare un po' di soldi l'ho dovuto riprendere a mia volta, perché ho preso degli altri apparati, eccetera, eccetera. Quindi prendere da privati è molto rischioso, se non hai la possibilità proprio di prendere l'apparecchio, di provarlo, di testarlo, eccetera, eccetera. Da negozio devo dire, ne ho preso alcuni, grazie, sono sempre andati bene, perché erano garantiti. A un amico, un ICR 7000 ho dato, le mani sono tagliate. Ok Nico, quando vuoi intervenire, comunque fa piacere. Ma è fatto, perché il ricevitore innanzitutto quando lo vendi ti danno poco, e poi segreto, ma è per sempre. Segreto. Quello era bello, eh. Per spiegarle, E poi c'è anche una grande illusione, sia per CD e in parte anche per i radioamatori. In realtà per ascoltare queste cose non ci vogliono grandi mezzi, anzi si può dire che tutti a casa ce l'hanno già, basta avere un ricevitore, un coso per gli esercizi. Purtroppo spesso non si sa neanche mettere uno spinotto, tutto lì. A volte il problema è solo quello. Io ad esempio da tutto il mondo, con qualsiasi ricevitore che ho qua, non faccio altro che attaccare uno spinotto collegato al computer, con programma adatto riesci a ricevere tutti gli aerei del mondo che mandano i loro segnali in tutti i digitali, sia di posizione sia di stato d'arte, come il volo, se hanno messaggistica eccetera. Poi ascolto anche sinfonia, perché ovviamente l'aereo, anche gli aerei pochi lo sanno, ma anche loro usano l'HS, perché c'è quella tratta del Nord Atlantico in cui quando si arriva a metà non ci hanno collegamenti e quindi per forza si devono usare sinfonia per dialogare con le torri di controllo. Dipende dalle frequenze, di notte ad esempio in 180 metri, che sarebbero 1,840 MHz per essere esatti, frequenza amatoriale, la notte si apre diciamo la propagazione, quindi si può comunicare senza particolari problemi, cosa che durante le ore diurne è molto più in salita, ecco. Poi salendo invece tipo in 10 metri, che sarebbero 28 MHz, la frequenza 1 MHz più alta rispetto alla nostra, si può utilizzare sia di notte che di giorno più o meno con le stesse prestazioni, a seconda soprattutto di come la propagazione non esiste. Tutto lì. Se non ricordo male, adesso te lo do col beneficio del dubbio, ma diciamo al 70-80% si può comprare qualunque ricevitore di voi, non ci sono problemi per quello, l'ascolto è libero. Puoi chiedere il nominativo, io ad esempio ce l'ho perché all'epoca era obbligatorio di SWVL anche. Se devi proprio mandare una QSL anche a stazioni onde corte, non solo a radioamatori ma anche a stazioni onde corte, che sono molto, di norma molto disponibili, che ne so, senti la stazione che nelle isole di Panama, per dire, le mandi o nei Caraibi, le mandi la tua QSL col condiviso e loro ovviamente devi mandare il rapporto d'ascolto, alle ore di porto ti ha ascoltato, chiara la trasmissione, e loro ti rispondono con la loro QSL, i suoi ringraziamenti, e ti mandano la loro cartolina. Io ho anche le isole Svalbard, ho ascoltato, e c'ho la QSL, addirittura DFC, il mio amico, trasmettendo la messa, ha anche parlato lui. Io purtroppo non avevo il nominativo per poter parlare, solo per poter ascoltare. E abbiamo sia la QSL lui che io. Avevo una stazione io quando stavo in campagna paurosa. Mac, avanti? Ok, ciao, Luca sono. Natalino, mi senti? Natalino? Sì. Sento un basso, poi c'è la terra, sta andando male. Ciao Gianfranco, mi senti tu? Sì, io ti sento. Prova a venire avanti, no? 1, 2, 3, prova. Vabbè, questa è la terra, sta andando male. Anche io ti salto. che scendi, tipico di un PL con qualche saldatura fredda o la calza che non è andata. Se altre hanno preso acqua. Oh, guarda, ti sta chiamando tuo pomeriggio. Lo senti? No, da quando? Negativo, la casa arriva, da quando? Ma tu non si sente, non è a casa sua, cazzo. Tu lo senti, ma è lui che non sente a te, cazzo. Luca, c'è qualcosa in quell'antenna sicuramente. Vabbè, la carina non è, diciamo, non è protetta bene, sotto avrà preso acqua. Oh, non lo so. Però stai arrivando più basso del solito, da dove sei, siamo capito dove sei. Sì, vabbè, la pandemia. Guarda, ce n'è uno anch'io, un Degen a batteria, è come una normale radio, non è neanche grande, è abbastanza piccola. È una radiolina con cui puoi ascoltare tutte le onde corte e anche l'SSD. Costava credo 99 euro, una cosa del genere. E va abbastanza bene, però ripeto, come ha detto Natalino, in città con tutti i disturbi che ci sono non funzionano proprio bene, perché se li prende tutti. Quindi va bene se devi andare in una zona di campagna, al mare, eccetera, eccetera, va molto molto bene. Anche con la sua antennina telescopica. Però se in città è un po' salita, ecco. Riprendi Natalia. Riprendi. Oh, ho un lato di memoria. Vabbè. Ma fammi come si chiama? A me stavi dicendo. Sì, Natalia, ho rilanciato. Ciao. Perché non ti ricordavi il nome, forse. Sì, la vecchiaia, ma questo è altro. Lo so, la vecchiaia è carrone, stiamo diventando tutti vecchi. Io no, per ora. Cazzo, ti facevo molto più giovane, quindi hai superato i 60. Che ci crede a noi, io sono più vecchio di te. Non sono Natalino, tu come ti qui? 1957, classe di ferro, sono quante Walter, io. E quanto è me? Anche tu sei del 57, Gianfranco. Confermo, 57. Classe di ferro per la porta. Anche il ferro migliore di fronte a tante intemperie, a tanti cambiamenti, tende a arrugginirsi, vero Natale? Sì, in effetti è così. Luca? Sì. Forse sta controllando l'antenna. Che cosa mi avete ricordato proprio di guardare come sono lasciato le batterie dentro proprio con la radio? Adesso controllo se buttano fuori liquido, poi si rovina. Pronto, mi sentite? Pronto, mi sentite? Sentiamo a lei. Pronto, mi sentite? Sono in campagna, pronto? Già lo sento, mi dica. Ehi, Natali, già ti sento, Santiago 4, già ti sento, tu mi accoppi? Già ti accoppio, Claudio, carissimo. Buongiorno, caro, buongiorno, chi è che mi accoppia? Vediamo un po'. bandiera? Buon pomeriggio, Nico, non ti ascoltano, Claudio forse. Claudio, a me mi senti? Santiago 7, Gianfra, tu sì? Beh sì. E a me mi senti? 9, 10. 9, 10 con figlia e moglie anche a presto. Con che cosa? Con figlia e moglie a presto, che si sentono anche loro. Adesso togliamo il coso allora, così mi senti più basso? No, più o meno lo stesso. Ma sei di fronte, cosa diavolo stai usando? I 140, 140 con le MC60, l'alimentatore piccolino, neanche 10 watt, dai, neanche 10 watt. Ma l'antenna cos'è? Un dipolo. Ma magari lo metti in verticale, un dipolo, ti rende meglio, eviti i guai della polarizzazione. Perché è un po' basso, mi sembri, sta ricevendo un po' basso. Per essere da lì. Basso perché è basso di polo, ma giusto così per fare una prova, vero? Oggi penso rimarrò, se non si sporca il tempo, se no me ne rientro. Sì, già ne è poca paura di questo tempo, lo dico di mio, che capita. Vabbè, mi prendi Nico, tu non lo senti a Claudio? Ti sento Nicola, forte e chiaro. No, perché forse hai parlato assieme a Natalino, ti sento forte e chiaro. Vi sento tutti, più bassi ma vi sento tutti. Natalino arriva benissimo, Gianfranco lo stesso e tu lo stesso. Orizzontale attaccato da un albero all'altro praticamente, dai. Ci sono una quindicina di metri di capo di Reggi 58, quindi roba così da fortuna, però va bene, uno e uno di stazionari, vi sento tutti, vabbè, la posizione è molto alta. Mi pare di aver sentito anche a Luca poco fa. Luca, mi senti? Oh, ma Luca era Natalino. Era Luca, ma evidentemente ha rompato la cena perché non so voi. Poi dai, Natalino, Santiago 9, quanto è Gianfranco, mi arrivi che ce l'ho a 200 metri? Santiago 9 sta arrivando, Natalino. A voi i disegni di Sant'Anna funzionano di male. Ecco, male, basta, quel difetto lì, che è bassa, e bu, a chi si lascia, lo veda, vedi, che schicchia. Vabbè, c'è un break, lo facciamo venire avanti. Buongiorno a tutta la ruota, Gianni da questa parte, salutone a tutti. Claudio, io ti sento benissimo, 9 più Radio 5. Anche tu Gianni, buongiorno, 9 più Radio 5, più o meno come Natalino, dai. State arrivando bene, perché quella zona lì vostra è proprio davanti a me. Io sono davanti a voi. Va bene, va bene. Era giusto una prova per vedere se mi posso organizzare, ma no, penso proprio di sì, va bene, avanti Gianfranco, riprende e fai girare. Vabbè Claudio. Sì Luca. Mi senti? Sto provando l'antenna. Santiago 9, Radio 5. Beh, allora tu sei basso, da me arrivi 3, comunque la radio è bella, Santiago 9, Radio 5, lui, vabbè. Io c'ho di polo, c'ho la polarizzazione orizzontale, capito? Tu c'hai la polarizzazione verticale, però vi sento tutti bene, sono di fronte a te. Ok, Gianni, profetta? Positivo, 9 più Radio 5, Lu. Allora, è Natalino che sta arrivando basso, vabbè, strano, anche Franco, anche Gianfranco. Va bene, niente, sta provando l'antenna, là. Di Rogero, va bene che va bene. Dai, la radio del 140 con l'MC60, senza processore, c'è niente, non ce n'è processore, guarda, perché così è senza processore e così è col processore inserito, Lu, cambia qualcosa? Riprova, cazzo, io mi sono allontanato, riprova. Così è col processore inserito e così è disinserito. Sì, il processore inserito è molto più alto, dai, già cambia, cambia. Vabbè, la lasciamo così comunque, senza processore, dai. Ah, il cazzo di attacco con me, dai, sarebbe come ascoltarti male a te. E purtroppo il problema è mio. No, ma sta arrivando bene, sta arrivando tutti alla grande, nessun problema, gappa gappa. Allora, stazionario non ce n'è, perfetto. Nicola, vieni avanti. Ok, ho fatto una cosa, ho collegato qui, delle cuffie per cellulare, l'ho collegato all'apparato che mi sente di tutta, non pensavo che mi fosse. No, beh, questo è un apparato serio. A fare una prova, c'era pranzo qua e quindi l'ho portato. Avevo un dipolo arrotolato, sempre per le occasioni, l'ho messo, è 2,75 m neanche. Quindi va bene, dai, ti ascolto benissimo. Vai Gianfra, riprendi e fai girare. Sì Claudio, faccio una prova, provo a passare anch'io in polarizzazione orizzontale. Massimino, il comodo. Ecco, dimmi cosa è successo, ho calato o aumentato? No, è calato Gianfra. Ciao Franco, Franco è quello che schioppetta forte, 9 più 10, siamo di fronte a te, Fra. Ciao, buongiorno. Ciao Claudio, buongiorno a tutti, dai, tutti ho capito chi ci sono, che l'ho appena scelto. Sì, qua Radio 5, Radio 5. Ehi, ehi, ehi, vabbè, io sto usando pochi watt perché non voglio fare danno, comunque il tuo segnale è fortissimo qua, molto forte, evidentemente il dipolo è messo in una posizione dove irradia verso quella parte. Buongiorno Franco e buona giornata anche a te, il cambio per Natalino, avanti Natalino. Ciao Franco, non so se mi ascolti lì, perché io purtroppo ho poca potenza a disposizione. Ah, Natalino, ti ascolto sempre, me l'avete ascoltato tutti, i puri di Nicola. Ancora è zero per da me, sia di radio e sia di segnale. E poi gli altri vi ascolto tutti quanti. Poi volevo dire una cosa a Luca. Luca, a me mi pare, mi sembra che è sempre la stessa quella segnale radio la tua. Luca deve essere riattivo. No. Tu è che c'è ancora? Semplicemente no, c'è Franco anche. Gianfra, riprendi per Franco. Sì, anch'io lo sento bene a Franco. Mentre mi sa che non sente a Nicola. Franco, lo senti a Nicola che è comportarsi del successo? Ma è negativo. Qua sta parlando con Claudio e non ho sentito io, niente. Comunque buongiorno Gianfranco, me l'ha ascoltato, anche tu arrivi bene. Sì, buongiorno, merito, lo rifaccio venire avanti. Nico, prova di nuovo, non si sente lui, però prova un po', vediamo se si sente. Non si ha risposto, quindi non si sente. Ok, riprendi Natalie. Scusate un attimo solo, devo fare e devo Scappa, va bene Nicola, buona giornata allora con Franco, stasera. Riprendi Natalie. Ah, ciao Nico, buon tutto, ci sentiamo stasera, Ritrus. Ok, riprendi Gianfra. Va bene, va bene, ok, no, io vi ascolto tutti magnificamente bene, non pensavo, ok, no, no, Fra, non ne metto antenna qua, no, non ne metto antenna, no, non è roba mia, capito, non non è roba mia, lo facciamo, quindi non la metto antenna. C'ho di polo quando sono in campagna, periodo estivo, nelle occasioni eccetera, lo piatto e poi lo stacco, capito? C'ha due mollettoni, lo sgancio, lo piego, lo metto a fare. Era giusto per fare una prova, per fare due chiacchiere, per ascoltarti, dai. Tanto è giusto per oggi, stiamo pronti qua. Poi vediamo se la giornata è bella, rimango qua, se no me rientro a casa. Arrivaci qua, buongiorno, beh, se non arrivo a Porto Torre, c'è da Monteoro, allora ce l'hanno potuto. Ciao EG, buongiorno, arrivi anche tu benissimo. Okay. Dimmi, dove sei? Campagna. Monteoro. Eia. Cazzo, stai guardando la bomba. Sono col di polo, non ne ho di antenna qua. Infatti stavo guardando la cosola, stavo ascoltando la conversazione in orizzontale, non sei in verticale. No, c'è una polarizzazione orizzontale, Robert. Infatti un po' la radio te la strozza un pochettino. Comunque il segnale tuo è 9.40, quel picchi è 9.45. Ma sono senza processore, così sono col processore, così il processore è inserito. E così è senza processore, Roberto. No, non è la solita tua radio, naturalmente, che è molto più corposa in verticale, però benissimo, Radio 5, il segnale è una bomba. Quanto gliene stai dando? 8 watt, modulati 10 watt. No, cacca, 9.45 arrivi con i picchi. Roberto? Che è? Luca, mi senti? A Puglia, 9.5. Ah, ok, adesso provando l'antenna, sta riprendendo. E tu, Clara, mi ascolta? Ciao, volevo far sapere il controllo di radio, non di radio, di Santiago da Claudio. Come mi ascolti? Boh, non vuoi più. Io rimango con Rex, che sto facendo cosa un attimino, dai, vi ascolto, dai, poi magari rientro. Santiago 8 arrivi, Santiago 8 in campagna col di polo sta arrivando. Ehi, ha voglia che va bene, facciamo di arrivare solo a Gianni Doppio Room, da qua invece, caspita, avete dei segnali ottimi, Socio, Senoli, tutto, Porto Torres, Sassari, caspita. Ottimo di polo, fra 2.375, completo. Full side da un alberello all'altro, proprio in mezzo alla campagna. Claro, io. Tu sei 9.40 quasi, 9.30, dai. Vabbè, io sto di fronte, capo. Distanti siamo abbastanza distanti, ma io ti vedo a te, la tua antenna la vedo. Anche Franco di Sosso arriva a 9.10. Non arriva a 9.10 a Sassari da me, a casa, figurati. Arriva a 9.9. Qua arriva 9 più 10, sono a polarizzazione orizzontale. Attenzione, Natalino. Vediamo fra. Passati un attimo su 14, un attimo